Mix 24, i gialli della storia. Scavando a ritroso e attenendomi ai fatti, posso dire che era un uomo che aveva delle idee e voleva spenderle per cambiare il mondo. Non ho avuto molto tempo per conoscerlo da vivo. Avevo 13 anni quando lo hanno ucciso, esattamente 3 giorni dopo il mio compleanno, il 27 marzo 1985. Si chiamava Ezio Tarantelli ed era mio padre. Il 27 marzo dell'85 un comando delle Brigate Rosse uccide a Roma Ezio Tarantelli, 43 anni, docente di economia politica all'Università di Roma, uno dei grandi artefici della riforma del lavoro. Un passato a Cambridge, all'MIT di Boston, alla Banca d'Italia, nei più importanti atenei del nostro paese. Tarantelli era un uomo intelligente, colto, impegnato. Un uomo che metteva il suo lavoro e la sua passione al servizio della società. E dunque, nella perversa ottica dei brigatisti, un uomo da uccidere. È stato uno delle ultime vittime della stagione di sangue del terrorismo, come tanti, come troppi prima di lui. Ha lasciato dietro di sé gli affetti, il rimpianto, il dolore di un figlio, Luca, che si affacciava all'adolescenza, e della moglie Carol. Quella che vi raccontiamo oggi su Mix 24 è il ritratto di un uomo diventato suo malgrado un eroe del quotidiano. È il 1982 ed Ezio Tarantelli fa una prima lucida diagnosi della situazione sociale ed economica del nostro paese. Abbiamo di fronte un tasso di sviluppo del reddito che non potrà superare l'1%, un tasso di disoccupazione che, se tutto va bene, resterà quello che abbiamo ereditato da questi anni difficili, cioè quasi il 9%, un eccesso di manodopera presso le imprese, che secondo indici diversi va tra il 3 e il 5%, un numero di disoccupati in cassa integrazione, se mi permette il bisticcio di parole, che è dell'ordine dell'1%. E se si sommano queste cifre, inflazione, più disoccupazione paese, più disoccupazione nascosta, più cassa integrazione, siamo al di sopra del 30%. Un indice cioè di malessere sociale, quello che gli anglosassoni chiamano l'indice di Okun, che supera il 30% e che ci pone al di fuori dei paesi industrializzati. Dal 1965, subito dopo la laurea, Ezio Tarantelli trascorre lunghi periodi di studi all'estero, nelle due Cambridge, dove si formavano i migliori cervelli dell'economia internazionale, in Inghilterra prima e poi a Boston. Proprio all'MIT di Boston, nel gennaio del 67, Ezio conosce Carol, che diventa sua moglie. Era un momento di enorme libertà, dove noi non avevamo uno stampo marxista o libertario o qualsiasi stampo entro il quale costringerci. Avevamo il senso che potevamo farlo noi. E io penso che questo è stato un'enorme influenza su Ezio, che ha vissuto la sua vita intellettuale mettendo in dubbio tutto e pensando che lui poteva, certo non da solo, ma poteva ridefinire tutti i rapporti all'interno della sua disciplina, poteva ripensare l'economia. Esistono domande, istanze sociali da parte delle donne americane, da parte dei neri, da parte delle altre minoranze, tra virgolette, americane, da parte della società civile, che chiede diverse regole del gioco nella fabbrica, nella casa e nella società. E rispetto a queste diverse domande, l'unico bavaglio che può tenere zitta questa gente è la continuazione della disoccupazione. In inglese si dice think out of the box, pensare fuori dalla scatola. Ecco, ho capito che mio padre era un ragazzo di 27 anni quando in America, con mia madre e altri giovani della sua generazione, si è convinto di poter ripensare un mondo nuovo, fuori dagli schemi, in economia come nella vita privata. Il 5 giugno 1970 mio padre spedisce un telegramma a mia nonna a Roma. Tra una settimana mi sposo. Stop. Ezio. Eravamo molto, molto felici. Molto felici. Quello è il momento della nascita di Luca. Sono stati momenti di una felicità cosmica, io direi, proprio enorme. Invece di andare in luna di miele, mio padre usa il congedo matrimoniale che la Banca d'Italia gli concede per un ulteriore corso negli Stati Uniti. Ha bisogno di comprendere il conflitto sociale, ma vuole farlo con i numeri, con le analisi econometriche, fuori dalle gabbie ideologiche. In questo modo riporta in Banca d'Italia la sua esperienza per costruire il primo modello econometrico dell'economia italiana. Tra il 64 e il 69 l'economia del nostro paese sembra crescere a ritmi sostenuti, ma ben presto emergeranno alcune debolezze. Dall'autunno caldo del 69 poi, per tutti gli anni 70 e ancora nei primi anni 80, ce ne parla Antonio Fazio, governatore della Banca d'Italia dal 93 al 2005. Garle, allora governatore Garle, ci chiamò, chiamò me, professor Guido Rei, incaricandoci di costruire un modello econometrico dell'economia italiana. La cosa sul momento ci spaventò. In questa fase si inserì anche Ezio, e si inserì perché dovevamo sviluppare alcuni aspetti che a lui stavano particolarmente a cuore, quelli dell'economia del lavoro, dell'occupazione, dei salari. Un modello econometrico non è una sfera che permette di guardare nel futuro, perché il futuro non lo conosce nessuno. Mentre l'Italia si dibatte tra scioperi e manifestazioni, Tarantelli lascia da Banca d'Italia per l'insegnamento universitario. Dal 71 insegna prima alla Cattolica di Milano, poi a Firenze. Ce ne parlano Carlo Azeglio Ciampi, Rita Di Leo e il figlio Luca Tarantelli. Io gli dissi con tutta franchezza: va bene, per un anno vi concedo di fare l'insegnamento accademico, poi dovete scegliere o l'accademia o la banca. Ci tiene moltissimo alla carriera accademica, fu felicissimo di diventare ordinario molto giovane e fu per lui un punto d'arrivo addirittura più importante del lavoro per la Banca d'Italia. Con lui ho imparato a nuotare. Io avevo paura di andare senza braccioli al largo, ma lui, senza forzarmi, me li sgonfiava un po' per volta, finché un giorno, mentre stavamo nuotando, mi ha detto: «Guarda, i braccioli sono sgonfi, sai nuotare». Con lo stesso metodo, senza traumi, mio padre pensava si dovessero scardinare i rapporti di forza tra banca centrale, governo, imprese e lavoratori. Dalla metà degli anni 70 è già in azione, scrivendo su Paese Sera e Repubblica sui temi caldi del conflitto industriale. Lui non si sentiva schierato con i datori di lavoro. Lui diceva che c'era una sorta di pigrizia dei datori di lavoro nel mettere a disposizione dello sviluppo economico e sociale del paese le risorse che traevano dalle loro imprese. Prese la decisione di andare al sindacato e di proporre la sua collaborazione al sindacato, e in particolare la prima scelta che fece fu la CGIL, non fu la CISL. Avete sentito Leonello Tronti, economista, presidente dell'AIL dal 2004 al 2007. Ma deluso dalla mancanza di attenzione da parte di Luciano Lama, Tarantelli si rivolge a Pier Carniti, che in quel momento è segretario generale della CISL e lo sarà dal 79 all'85. Quindi l'idea era di mettere in piedi uno strumento efficace e riconosciuto nel suo fondamento scientifico per valutare le dinamiche, le grandezze economiche che al sindacato interessa. La mia idea iniziale era di fare un istituto unitario. Nasce l'ISEL, un importante centro di ricerca sul mercato del lavoro. A dirigerlo Enzo Tarantelli. Al centro dei suoi studi e interessi ci sono i problemi del lavoro e dell'occupazione. Ce ne parlano Bruno Chiarini dell'Università di Napoli e Massimo Bordignon, assistente di Tarantelli in quegli anni. L'ISEL era un punto di riferimento. Sembra strano a dirsi, ma poi non è così strano. Faceva parte di una sua logica, aveva una sua logica, ossia portare il sapere dentro il sindacato per cercare di nuovo di far fare il salto, passava anche attraverso questo, il salto del sindacato da oggetto a soggetto di politica economica, capace di, per esempio, produrre delle simulazioni. Era un altro mondo, non è come adesso, ognuno c'ha il suo pacchetto econometrico, c'è il computer piccolo, ti metti lì, fai tutte le tue regressioni. Allora avevamo questo cervellone gigantesco con un primo programma che si usava a quei tempi per fare queste simulazioni, complicatissimo, che si chiamava, me lo ricordo ancora, Troll. che ha questo nome che sembra un mostro norvegese, in cui c'erano 20 libroni, per cui quello che tu adesso potresti fare, diciamo, in 10 secondi, allora ci voleva mezz'ora solo per impostare tutto il lavoro, perché per fare una regressione dovevi dire al computer: guarda, piglia quello, fai quell'altro. E così. Quindi Tarantelli dedica la sua vita professionale a temi centrali di giustizia sociale, come la scala mobile e la disoccupazione. Ne parlano il figlio Luca e la moglie Carol. Cosa volessero dire quei numeri? Da ragazzino non lo capivo neanch'io, perché la matematica la odiavo. Ma mio padre era tenace, mi rincorreva e insieme alle tabelline mi insegnava che con i numeri si possono risolvere i problemi della gente. In particolare un problema apparentemente insolubile, quello della distribuzione del reddito. È possibile stare dalla parte dei più deboli, di chi perde il lavoro, senza danneggiare il sistema economico? Questa era la paura dei forti a cui contrapponeva l'utopia dei deboli. Costruire un mondo dove nessuno dovesse patire la disoccupazione, mai più. Io credo che il cuore di tutto il suo lavoro sia nato da un'antica ferita. Da ragazzino mio padre aveva sperimentato sulla propria pelle la disoccupazione di mio nonno. Di fronte a quel dolore vissuto, mio padre aveva detto mai più. Ma non solo per sé e per la sua famiglia. A soli 14 anni mio padre si rende conto che la perdita del lavoro è la cosa più umiliante che un uomo possa subire. Ha imparato da ragazzino che il lavoro è un valore per cui battersi. L'utopia dei deboli non è forse la paura dei forti? Continua a ripetersi. Da economista il suo tarlo è che i salari non vengano intaccati da nessuno. Che i responsabili siano i padroni, le banche o l'inflazione, poco importa. Quando l'inflazione comincia a corrodere i salari dei lavoratori italiani, mio padre ingaggia una lotta che occupa 10 anni della sua vita, dal 1975 al 1985. Lui voleva influenzare il corso degli eventi, lui non aveva nessuna intenzione a essere solo un teorico. Anche se ci teneva moltissimo a essere un teorico, tant'è che cercava di ridefinire le discipline, l'economia del lavoro, penso che l'abbia sviluppato tantissimo lui. È il 1980, sul volo aereo di ritorno da un corso di economia del lavoro che aveva tenuto all'MIT di Boston, gli viene l'idea della predeterminazione degli scatti di scala mobile. Così ne parla nell'84 Radio 3. Abbiamo parlato di proposte di deindicizzazione della scala mobile in generale, dalle materie prime, e della proposta che a me è certamente la più cara e sulla quale ancora mi batto, cioè quella della predeterminazione dell'inflazione, con particolare riguardo alla predeterminazione dei punti di scala mobile. Ci deve essere un obiettivo di inflazione che è predeterminato tra le parti sociali, questo è il punto centrale della mia proposta a livello teorico, e quali che siano i mezzi tecnici per ottenerlo, si scelga il mezzo tecnico che deve avere due caratteristiche: il più equo dal punto di vista sociale, il più efficace dal punto di vista tecnico. Oggi, siccome la scala mobile è indicizzata al passato, è un meccanismo che perpetua l'inflazione se l'inflazione già c'è. Non causa l'inflazione, ma è un elemento che la perpetua, in quanto non fa sì che il salario risponda all'inflazione del trimestre precedente nel trimestre seguente, e questo fa sì che le imprese scaricano poi su quello che segue di trimestre l'aumento del costo, il che a sua volta si ripercuote in ulteriori scatti di scala mobile che vengono riflessi sui salari e di rimbalzo sui prezzi. Ma qui bisogna distinguere: se per intangibilità della scala mobile si intende l'intangibilità di un tabù, allora ovviamente non c'è nulla che si può fare per raffreddare l'inflazione, e temo che saranno gli stessi lavoratori a pagare in termini di disoccupazione e di aumento dell'inflazione, che oggi viaggia al 30%. Il discorso è diverso se per scala mobile si intende un meccanismo che deve garantire ai lavoratori in termini reali il potere d'acquisto del salario. La proposta che io ho avanzato garantisce ai lavoratori a fine anno lo stesso potere d'acquisto in termini reali che essi avrebbero avuto in assenza di qualsiasi modifica della scala mobile. Insomma, la battaglia sulla reindicizzazione della scala mobile diventa la battaglia della vita di Enzo Tarantelli. Ancora l'economista Leonello Tronti. Ezio ebbe la fortuna, diciamo, di sviluppare la sua campagna per la predeterminazione del tasso di inflazione attraverso gli scatti di scala mobile, in un momento che era favorevole politicamente alle sue idee. Perché? Perché avevamo Spadolini, presidente del Consiglio, il primo presidente laico nella storia della Repubblica, e Spadolini si era fatto portatore di un'idea di Lamalfa, di Ugo Lamalfa, di fissare un obiettivo di inflazione per l'economia. Per Tarantelli fu facile coniugare la lezione di Paolo Baffi sulla predeterminazione della scala mobile con l'idea del tasso di inflazione programmata di Spadolini e farne un'unica politica innovativa. Innovativa perché? Perché si basava sul metodo della concertazione. Nell'inverno dell'83 si sta per raggiungere un accordo che forse mette finalmente in atto l'idea di Tarantelli, il Lodo Scotti, dal nome dell'allora ministro del Lavoro Democristiano. Buongiorno, a mezzanotte in punto si è conclusa positivamente al Ministero del Lavoro quella che si può definire la più lunga, se non la più difficile, vertenza sindacale di questi ultimi anni. Attorno al lungo tavolo, governo e parti sociali hanno firmato il protocollo d'intesa. Con il ministro del Lavoro Scotti c'erano i ministri Goria e Bodrato, democristiani, il socialista De Michelis, il liberale Altissimo, il socialdemocratico Nicolazzi. Per i sindacati Lama, Carniti e Benvenuto, per gli industriali privati Merloni, per quelli pubblici il presidente dell'Intersind Paci, i rappresentanti dell'ASAP e della Confapi che raccoglie le piccole e medie aziende. Il progetto di Ezio Tarantelli è quello di arrivare a un nuovo metodo per governare l'Italia, ma nei primi anni Ottanta la difficoltà è convincere la CGIL a una politica di concertazione, cercando di evitare una spaccatura con le altre sigle sindacali. Intanto il 3 maggio dell'83 un comando delle BR spara alle gambe a Gino Giugni, il padre dello Statuto dei Lavoratori. La nuova strategia terroristica non è più volta a colpire il cuore dello Stato, ma le menti più brillanti al servizio dello Stato. Avremmo dovuto avere paura anche noi, ma mio padre era troppo convinto della forza delle idee. Con i suoi articoli sulla Repubblica poteva convincere milioni di persone che la scala mobile era un feticcio, che riducendola non si riducevano i salari reali. Oggi mi chiedo se mio padre allora si rendesse conto di quanto fosse pericolosa la sua posizione e se si sarebbe mai tirato indietro. Allora avevo 12 anni e non sapevo che stavo per perderlo. Levare la scala mobile diventa una misura impopolare che trova l'avversione di tutti i sindacati, ma soprattutto implica sempre più per il sindacato un diverso rapporto con gli imprenditori. Non si tratta più dello scontro delle lotte di classe, ma di una prospettiva di contrattazione dove il governo si fa garante. Una vera rivoluzione della mediazione che ad alcuni fa paura. Il 14 febbraio dell'84 il governo Craxi vara il decreto legge di San Valentino. Diventa legge l'accordo con la CISL e la UIL che predetermina gli scatti della contingenza e ne congela 4. Questo determina una spaccatura nel sindacato e poi si accentuerà sul referendum per abolire il decreto. Mio padre non esce soddisfatto dalla notte di San Valentino del 1984. È stata una vittoria tecnica ma una sconfitta politica, dice. Il sindacato unitario ne riporta le ossa rotte. Non perché l'idea del taglio della scala mobile sia stato un errore, ma perché non c'è stato il promesso scambio politico e a farne le spese saranno di nuovo i giovani e i disoccupati. Messo nell'angolo, il PC di Berlinguer reagisce proponendo un referendum abrogativo e mobilitando la piazza. Mesi e mesi di tensioni si susseguono. Mio padre sa che in questo clima lui, considerato suo malgrado il padre del decreto di San Valentino, sta diventando un bersaglio. Il 24 marzo 1984, mentre spegnevo le 12 candeline sulla mia torta di compleanno, 700.000 persone riempivano Piazza San Giovanni, portando cartelli con disegnato Bettino Craxi vampiro mentre divora le paghe operaie. Chiediamo semplicemente al Parlamento che raccolga questa nostra volontà di giustizia. Gli chiediamo di ripristinare il potere contrattuale del sindacato, riconoscendo al sindacato l'autonomia di negoziare i salari, la professionalità, la scala mobile. Non avremmo mai la certezza che quel referendum abbia segnato la condanna a morte di mio padre, ma certo in quel clima lui era esposto più di altri. Mio padre non voleva mollare e per mesi si adopera per evitare che si arrivi al referendum nella speranza di ricucire lo strappo. Mi sono commosso leggendo la conclusione di un articolo di mio padre su Repubblica. A questi compagni che stentano a cambiar pelle occorre ricordare che di economia non si vive, ma di economia si può alla lunga morire. Il 7 giugno 1984 Enrico Berlinguer durante un comizio viene colpito da un'emorragia cerebrale che nel giro di 4 giorni lo porta alla morte. Lo stesso giorno il PC indice il referendum abrogativo sulla scala mobile. C'è chi sostiene che il vecchio Partito Comunista sia morto allora, ben prima della caduta del muro di Berlino e del cambio di nome. Nei miei ricordi il 1984 finisce con un'altra estate meravigliosa e il 1985 inizia con una Roma imbiancata. Il 24 marzo, giorno del mio compleanno, si era già sciolta. Avevo 13 anni e quello sarebbe stato l'ultimo compleanno passato con mio padre. È il 27 marzo dell'85, sono le 11 quando Tarantelli lascia l'Istituto di Economia del Lavoro dove insegna da 2 anni. Sta salendo a bordo della sua auto quando gli si avvicina un giovane armato di mitra che lo chiama «Professore, scusi!» e appoggiando l'arma al finestrino di sinistra, quello accanto al posto di guida spara a raffica. Tarantelli si accascia sul sedile di destra. Così il ricordo della moglie. Sono venuti a prendermi, che sapevo che era all'ospedale, la sua segretaria e i suoi collaboratori. L'ho chiesta alla segretaria e se era morto e mi ha detto di sì. Luca aveva compiuto 13 anni 4 giorni prima, 3 giorni prima, ma mi ha colpito molto quello che lui ha detto quando gliel'ho detto, che eravamo seduti sul suo letto. E lui ha detto, sai che ti dico? Che cosa? E lui ha detto, dobbiamo andare avanti con le nostre vite. E poi un altro silenzio, e come fa Sese, e ha detto, chissà come sarà la mia vita. Che era una cosa terribile da sentire. I processi hanno accertato che a uccidere il professore è stato Antonino Fosso, assolto in primo grado e condannato poi all'ergastolo. Barbara Balzerani, come capo della colonna romana delle BR che ha dato vita alle operazioni, viene condannata a 2 anni di carcere per apologia di reato. Per i gialli della storia ringrazio Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione.